Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile sulla parola di Dio. Dalla volta scorsa abbiamo iniziato a fare il nostro percorso lungo le pagine degli Atti degli Apostoli e ci siamo soffermati insieme la volta scorsa sulla pagina dell'ascensione di Gesù al cielo. Ora, l'obiettivo di questa nostra trasmissione, di questo nostro appuntamento mensile è sempre duplice. Da un lato vogliamo scavare dietro il significato profondo della parola di Dio, lasciando che i singoli termini parlino alla nostra vita. Dall'altro desideriamo far sì che la parola di Dio possa diventare luce al nostro cammino, non tocchi solo la nostra testa, ma possa entrare nel nostro cuore, possa abitarlo, scaldarlo. Chiediamo quindi fin dall'inizio di questo nostro appuntamento la presenza dello Spirito Santo, perché al di là delle fatiche che possono caratterizzare ciascuno di noi alla fine di una giornata, che può essere stata una giornata di lavoro, una giornata di offerta delle proprie sofferenze, una giornata di ascolto, al termine di questa giornata lo spazio che dedichiamo alla parola di Dio possa veramente servire al nostro cammino, un cammino che ci prepara anche a un appuntamento significativo, l'appuntamento del Natale. Questa sera chiedo a chi è in ascolto di offrire quest'ora e mezzo e di pregare attorno alla parola in quest'ora e mezzo insieme, non solo per l'efficacia della nostra trasmissione, ma anche per situazioni delicate di cui magari ciascuno di noi è a conoscenza. Io affido soprattutto alla vostra preghiera un giovane che in questi giorni sta soffrendo molto a causa di un tumore molto aggressivo. Ecco, chiedo il vostro sostegno, la vostra preghiera, perché con la forza che viene dall'aiuto di Dio possa affrontare questo difficile momento, affrontarlo tenendo le mani in quelle di Maria, nostra madre. Entriamo quindi ad ascoltare la parola di Dio che in questa puntata, questa sera, si soffermerà soprattutto sulla descrizione della prima comunità cristiana. Dopo che Gesù ascende al cielo, al termine dei 40 giorni di catechesi privilegiata di nuovo ai suoi discepoli, dopo la famosa domanda su cui ci siamo soffermati la volta scorsa, in cui i discepoli dopo 40 giorni di catechesi del risorto sembrano ancora aver capito poco, ecco che Luca fa la fotografia di quella che era la prima comunità cristiana. Ed è interessante notare come viene presentata proprio la prima comunità. Ascoltiamo insieme i versetti dal 12 al 14 degli Atti degli Apostoli, capitolo 1. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Allora, notiamo subito da questa fotografia tre soli versetti, pensate, in tre soli versetti Luca riesce a darci l'idea di com'era la comunità cristiana delle origini. Da questa prima fotografia emergono tre gruppi principali, gli undici, le donne, tra le quali Maria, la madre di Gesù, occupa un posto di rilievo, e i suoi fratelli. Allora, guardiamo un attimo queste tre realtà più da vicino. Cominciamo dagli undici. Se voi avete fatto attenzione al modo in cui Luca narra la presenza di questi undici, Notate che Luca procede per coppie. Anche la traduzione che ho letto nella versione liturgica, nella versione che noi proclamiamo in chiesa, rende bene la traduzione perché utilizza tra un nome e l'altro la particella e che unisce i nomi. Quindi si nota che si procede per coppie. C'è Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso. Però in questa lettura a un certo punto la lettura incespica, cioè si nota subito che la presenza di questo primo gruppo all'interno della comunità delle origini non è qualcosa di lineare, c'è un vuoto all'interno di questo gruppo che lascia un po' in sospeso il lettore, che fa notare una distonia in questa presentazione. La distonia evoca un vuoto, il vuoto lasciato da Giuda. In altre parole, la comunità delle origini in questo primo gruppo evidenzia una ferita che scotta. All'interno di questi 11 manca una persona che è stata membra del gruppo e che ha avuto un ruolo significativo. E che ha lasciato però anche una ferita. 11 del resto è anche un numero che indica l'imperfezione, qualcosa insomma che non va del tutto. Sostiamo un attimo su questo aspetto, lo riprenderemo poi, ma per farci notare come subito Luca all'inizio, nel fotografare la comunità cristiana, mette in evidenza un elemento di vuoto. Secondo gruppo. Il secondo gruppo è quello delle donne. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, dice Luca. Quindi accanto agli 11 ci sono le donne, tra le quali spicca la figura di Maria, la madre di Gesù. E anche qui non bisogna dimenticare che, stando a quanto riportano i Vangeli, il rapporto tra le donne e gli apostoli non è mai presentato come qualcosa di idilliaco, né durante il ministero di Gesù, né all'indomani del mistero pasquale. Su questo aspetto Gesù era stato uno che per certi versi aveva proprio rotto gli schemi del tempo. Non dimentichiamo che negli stessi annunci di risurrezione le donne non è che appena portano l'annuncio di risurrezione sono accolte con entusiasmo da parte degli altri. Non tutti si mettono a correre verso il sepolcro, e ne corrono solo due degli 11 al sepolcro, e non è che ci corrono pieni di entusiasmo per capire quello che è successo. Quando se ne tornano indietro non si capisce se si sono resi conto che effettivamente le cose stanno come hanno detto le donne oppure no. Ora, Luca è l'evangelista che tra tutti mette in luce in modo più forte il ruolo occupato dalle donne, adottando una tecnica letteraria che gli è tipica, che è proprio quella della coppia. Se voi ripercorrete le pagine del Vangelo di Luca, notate che l'evangelista Luca fin dall'inizio mette in scena le coppie dove il maschile e il femminile si completano a vicenda. Si inizia con Zaccaria ed Elisabetta, si continua con Giuseppe e Maria, al Tempio troviamo Simeone e Anna. Quando Gesù inizia il suo ministero pubblico nella predicazione cita come esempi la vedova di Zaretta e Naaman il Siro, quindi una donna e un uomo pagani. Quando racconta le parabole parla dell'uomo che semina il granello di senapa e la donna che impasta il lievito. Oppure il pastore che smarrisce la pecorella e la donna che smarrisce la dramma, il giudice e la vedova. Vedete, è proprio tipico dell'evangelista Luca. Ed eccolo ancora qui, nel momento in cui descrive la prima comunità cristiana, non fa altro che vedere nella comunità cristiana il frutto del discepolato di Gesù. Anche durante la sequela di Gesù, accanto ai 12 non c'erano solo i 12. C'erano anche alcune donne che seguivano insieme i 12, a cui viene dato grande spazio all'inizio del capitolo 8. Però sono figure scomode. E anche qui questo secondo gruppo inserito dopo quello degli 11 sembra un pochino stupire. il lettore. Arriviamo infine al terzo gruppo, perché ci viene detto che tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Chi sono i fratelli di Gesù? Ora, noi non entriamo qui in merito alla questione concernente il significato della parola fratello, non è questo l'obiettivo della nostra riflessione, della nostra trasmissione, ma è significativo che anche il gruppo dei fratelli di Gesù entra qua in scena come elemento essenziale della comunità delle origini. In modo molto evidente, dietro i fratelli di Gesù sta tutta la sua parentela. E noi sappiamo dalla letteratura apocrifa e dalla letteratura neotestamentaria che all'interno del gruppo dei parenti di Gesù ce n'è uno che a un certo punto assumerà un ruolo molto importante nella Chiesa delle origini, ed è Giacomo, il Giacomo di Gerusalemme, non è il Giacomo l'Apostolo, il Giacomo di Gerusalemme, uno che apparteneva ai parenti di Gesù. Tra l'altro abbiamo anche testimonianze molto antiche nella letteratura ebraica che menzionano come primi nemici, del giudaismo del primo secolo, i famosi Nazorei o Minim, cioè coloro che credono ad un messia particolare che non viene riconosciuto dal mondo ebraico. Pensate che una delle maledizioni nei confronti di questo gruppo di persone, i Nazorei o Nazareni o Minim, noi la ritroviamo nella preghiera ebraica delle 18 benedizioni, un testo che è stato steso intorno all'80 dopo Cristo e che dice così, che gli apostati, è una delle invocazioni di questa preghiera, che gli apostati non abbiano alcuna speranza, che il regno dell'impertinenza sia sradicato dai nostri giorni, che i Nazareni e i Minim scompaiano in un batter d'occhio, che siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti insieme ai giusti. Benedetto sei tu, Signore, che schiacci gli orgogliosi. Chi sono? Alcuni studiosi si sono chiesti ovviamente chi sono questi Nazareni, chi sono questi Minim. Ecco, i Nazareni Minim menzionati in questa preghiera sembrano proprio essere membri di questo gruppo familiare di Gesù che a un certo punto riconosce nel proprio avo, Gesù, il Messia promesso da Dio. Quindi abbiamo a che fare con tre gruppi diversi con cui viene fotografata la comunità delle origini. Come mai Luca si sofferma a fotografare questi tre gruppi, gli undici, le donne e i fratelli di Gesù? Secondo gli studiosi questa fotografia dice i tre accenti che la comunità cristiana delle origini portava dentro di sé. Evidenziando tre gruppi distinti non vuole solo far capire la diversa coloritura della composizione della prima comunità, ma vuole sottolineare anche come queste, nella comunità delle origini, certo c'era una concordia di fondo, ma questa concordia non è che era qualcosa di spontaneo, era qualcosa che avveniva in nome di Cristo e che non è stato facile costruire. In fondo noi capiamo dall'interno, dalla letteratura dei Vangeli, dalle lettere apostoliche, dalla letteratura apocrifa, cioè che viene scritta dopo il periodo in cui è stato steso il Nuovo Testamento, da tutta questa letteratura noi riusciamo a capire che effettivamente nella comunità cristiana tra queste correnti c'erano anche delle tensioni, perché ognuno si riteneva in qualche modo depositario del messaggio e della testimonianza di vita che Gesù aveva lasciato. Chi è il punto che tesse comunione tra queste tre realtà diverse? È Maria. Maria viene qui fotografata al centro come colei che tesse comunione. Chi meglio di lei è discepola tra i discepoli? Chi meglio di lei è donna? Chi meglio di lei è parente di Gesù? E allora Maria viene collocata non a caso al centro dei diversi gruppi come colei che custodisce la Chiesa delle origini, è madre dell'attesa, in attesa della Pentecoste, quello spirito che creerà unità all'interno della diversità, e madre anche che edifica la Chiesa delle origini, dando forza a questa comunità che sta muovendo i primi passi. Ecco, cosa succede all'interno di questa comunità variopinta? Quali sono le questioni che la comunità si trova ad affrontare alla prima ora? La continuazione del testo mette subito in evidenza qual è il primo problema da affrontare. Però prima di continuare nella nostra lettura lasciamo un breve spazio musicale in modo che ciascuno di voi possa nuovamente rileggere questi tre versetti in cui viene fotografata la comunità cristiana e interiorizzare un attimo quanto ci siamo detti. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella lettura del testo. Allora, dopo aver fotografato la comunità delle origini, ci ponevamo la domanda: qual è la prima questione che questa comunità deve affrontare? Allora, riprendiamo in mano il testo e andiamo un pochino avanti nella nostra lettura. Leggo i versetti che vanno dal 15 al 22. In quei giorni, Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120. E disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato nel nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta, nessuno vi abiti e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Allora, notiamo che la prima preoccupazione di questa comunità è quella di cancellare la macchia che grava sulla comunità, cancellare quella ferita che scotta. Prima dicevo, no? Luca, raccontando com'è composta la comunità, procede a coppie per indicare gli undici e poi c'è come un punto in cui il lettore incespica, dove manca qualcosa, e quel vuoto fa venire in mente Giuda. E qua troviamo conferma. Pietro, la prima preoccupazione che ha di fronte alla comunità riunita è la preoccupazione di togliere la macchia che grava su quella comunità. Vuole ricostituire il gruppo, vuole ricomporre il numero 12. Sono rimasti in 11, vuole che il numero 12 sia ricomposto. Perché? Perché il numero 12 ha tutto un significato simbolico dietro di sé. Dire 12 significa esprimere un concetto di completezza, un anno era composto fin da allora, da 12 mesi, ma significa soprattutto rievocare l'unità dell'antico regno davidico-salomonico, quindi le 12 tribù di Israele che trovano continuità nei 12 apostoli scelti da Dio. Nella stessa Gerusalemme celeste il 12 è il numero dell'elezione della città santa. 12 saranno le sue porte, ognuna delle quali sarà presieduta da un apostolo, e sarà appoggiata su un basamento. Pensate che persino nei testi rabbinici si riteneva che l'albero della vita posto al centro del giardino dell'Eden avesse 12 frutti. Non a caso viene anche detto che il numero delle persone radunate era circa 120. 120 è un multiplo di 12. 120 era anche il numero dei componenti di un sinedrio locale, un numero necessario perché le decisioni prese avessero un valore giuridico, cioè avessero un valore che nessuno poteva mettere in discussione. Quindi quello che Pietro mette in evidenza davanti alla comunità è: bisogna fare una scelta importante che diventa vincolante. E Pietro motiva il perché di questa scelta quando dice che la storia di Giuda non solo è una ferita nel cuore della comunità che si prepara ad annunciare il risorto, ma è anche una storia nota, talmente nota a Gerusalemme, che è dedicato a questa vicenda un campo che tutti conoscono, il campo del sangue, il campo della Keldama, dove non solo si ricorda un tradimento, ma si ricorda anche la morte ignominiosa del traditore, che è morto uccidendosi. Tra l'altro la vicenda di Giuda viene riletta da Pietro, o perlomeno da chi racconta questo episodio, da Luca, secondo il modello della morte degli empi, tale quale viene descritta nel libro della Sapienza, al capitolo 4. In questo modo la vergogna viene attribuita all'empietà del traditore e in qualche modo il gruppo dei 12, degli 11 in questo caso, ne esce per certi aspetti indenne, si tira un pochino fuori da questo. Qual è la proposta che viene fatta da Pietro? La proposta che viene fatta da Pietro è di scegliere qualcun altro che prenda il posto di Giuda. Però questo qualcun altro deve rispondere ad alcune caratteristiche ben precise. Deve essere una persona che ha condiviso tutto il tempo del ministero pubblico di Gesù, dal battesimo di Giovanni al Giordano fino alla sua ascensione. Deve essere un testimone della sua risurrezione e deve aver vissuto con il gruppo degli apostoli il periodo delle apparizioni del risorto, i famosi 40 giorni, che vengono descritti nei versetti precedenti. Quindi, se ha queste caratteristiche, la persona può sostituire e prendere il posto del traditore. In questo modo, obiettivo di Pietro e degli undici sembra essere quello di ricominciare la storia per ricominciare, stando a questi primi versetti, ha bisogno di cancellare la macchia che ci sta dietro. Un po' come se la carta d'identità del gruppo degli undici fosse in qualche modo macchiata, per cui per presentarsi bene al mondo sentissero il bisogno di una nuova carta d'identità pulita, e perché questo avvenisse c'era bisogno di una sostituzione, coprire la macchia di sangue, cancellare la ferita che scotta. La domanda che dobbiamo porci è: questa è la proposta che fa Pietro all'inizio della storia della comunità cristiana, ma questa proposta è veramente condivisa dal Signore? C'è qualcuno dietro Pietro che gli ha suggerito di fare questa scelta oppure no? È interessante notare come il testo va avanti. Allora, leggiamo anche gli ultimi tre versetti di questo racconto. Il testo dice: ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Allora, interessante, di fronte quindi alla situazione a questa macchia che caratterizza la storia della prima comunità, ne vengono proposti due che, tra i quali, ecco, viene fatta una scelta di chi deve sostituire Giuda. Chi li propone? Dal testo non si capisce, pensate, ci sono alcune varianti a questo testo di un codice antico, il famoso codice di Beza, che sostituiscono il plurale del verbo con il singolare, in modo da attribuirlo a una persona specifica, a Pietro. Ne propose due, dice la variante del codice di Beza, però il testo non è chiaro, non sappiamo chi è che li propone. Ne propongono due, uno è pieno di titoli, è pieno di raccomandazioni, Giuseppe. Di Giuseppe abbiamo sentito come viene presentato, Giuseppe è detto Barsabba, cioè Bar Sabbat, il figlio del sabato. Uno che si chiama figlio del sabato sicuramente ha la fedina penale pulita, perché il sabato è l'emblema per eccellenza dell'osservanza. Non solo, come se questo non bastasse, viene addirittura soprannominato Tzadik, giusto, e quindi è colui che più osservante di così non si può. L'altro invece semplicemente è un Mattia, un nome che incontriamo per la prima volta. Mattia probabilmente è un'abbreviazione di Mattatia, significa dono di Dio. Su chi cade la scelta? La scelta cade su quello che non ha punti di raccomandazione, su quello che ha solo un nome, Mattia. Ora, di fronte a questa scelta viene spontaneo, nascono spontanee alcuni interrogativi. La scena sembra essere lineare, però alcune domande sorgono nel lettore. Perché se i fratelli erano 120, solo due persone vengono segnalate? Possibile che tra 120 fratelli ci siano solo queste due persone che rispondano a quei criteri? Essere stati con Gesù durante il ministero pubblico, essere stati testimoni della risurrezione, aver condiviso con il gruppo apostolico il periodo delle apparizioni del risorto. Quando noi andiamo a leggere il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, Paolo dice le persone a cui Gesù appare e le menziona di numero, dice che il risorto è apparso oltre agli 11, è apparso a ben 150 fratelli e non sono pochi i 150 fratelli. Qui sono 120 persone, possibile che su 120 persone solo due vengono scelte? Non è che si vuole orientare in qualche modo la scelta su una persona specifica. Seconda domanda, la decisione della sostituzione di quel posto vuoto era veramente qualcosa di necessario? Se sì, come mai Gesù, prima di salire al cielo, non ne aveva parlato con i suoi discepoli? I suoi discepoli, prima di salire al cielo, i discepoli avevano fatto una domanda ben precisa, avevano chiesto, Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Il regno di Israele è fatto da 12 tribù, è ovvio che i discepoli ancora pensavano a sto numero 12 che non era ben composto, ma Gesù aveva corretto quella domanda, gli ha detto non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, e non è più questione di Israele, bisogna pensare agli orizzonti del mondo, da Gerusalemme si deve passare alla Giudea, alla Samaria, fino ai confini della terra, era quasi un invito a mettere tra parentesi un certo modo di pensare, come mai adesso Pietro e gli undici tornano? Viene scelto Mattia, Luca condivide la scelta di Mattia. E potremmo dire, ma certo che la condivide, sì, però se questa scelta di Mattia è così importante, come mai di Mattia nessuno poi parla più? Se noi prendiamo gli Atti degli Apostoli, notiamo che gli Atti degli Apostoli sono dedicati sostanzialmente a Pietro, Giovanni e Paolo. Questi sono i grandi apostoli di cui in questo libro si parla. Di Mattia si parla qui e poi esce di scena. Pensate che anche negli scritti più antichi noi non abbiamo nessuna testimonianza riguardo a questo Mattia. Bisogna aspettare la fine del secondo secolo perché nasca un Vangelo apocrifo attorno a lui. Quindi questo ci dice qualcosa. E per capire il mistero, l'enigma, se vogliamo, che si cela di fronte a questo interrogativo, bisogna, a mio avviso, cogliere un pochino di più la strategia narrativa di Luca. E dietro la strategia narrativa di Luca ci sono sei piccoli indizi, condivisi anche da grandi teologi del passato, che dimostrano come dietro questa scelta c'è la comunità cristiana ancora non illuminata dallo Spirito Santo, che non hanno ancora ricevuto, e che attraverso questa scelta il Signore fa capire altro a questa prima comunità. Mi spiego. Prima di tutto notiamo che negli Atti degli Apostoli Pietro e gli undici spesso si sbagliano nei loro interventi ufficiali. Cioè, una cosa è quello che decidono loro, un'altra è quello che lo Spirito fa. L'esempio plateale per eccellenza è il capitolo 6 degli Atti degli Apostoli. Ricordate quell'episodio in cui la comunità diventa più grande, le vedove e i poveri vengono trascurati. Allora, i dodici intervengono sempre guidati da, ovviamente, Pietro, e Pietro dice: io come soluzione propongo questo. Scegliamo alcune persone che si dedicano al servizio dei poveri e delle mense, noi ci dedicheremo al servizio della parola e alla predicazione, quindi alla formazione delle comunità. Vengono scelte sette persone, quelle che noi identifichiamo, fra virgolette, con il termine di diaconi, mentre i dodici a questo punto, perché il gruppo si è ricomposto, dovrebbero dedicarsi all'annuncio della parola. Cosa succede? Succede che da quel momento in poi, se Pietro prima aveva tenuto grandi discorsi, da quel momento in poi smette di parlare. Cioè lui, che lì aveva detto che doveva tenersi alla parola di Dio, lui dedicarsi alla predicazione, mentre i sette dovevano dedicarsi al servizio delle mense, cosa succede? Succede che se chi si dedica alla predicazione e incide maggiormente sulla vita della comunità, non sono più gli undici, ma diventano Filippo, diventano Stefano, cioè diventano persone di questi sette, a cui i dodici volevano affidare il servizio delle mense. E allora capiamo che un conto è quello che l'uomo, che all'uomo sembra di intuire della volontà di Dio. Un conto è la volontà di Dio vera e propria, cioè la volontà di Dio vera e propria a volte prende delle strade che sono diverse da quelle che noi pensiamo essere la volontà di Dio. Secondo elemento importante, noi notiamo che negli Atti degli Apostoli la testimonianza del Vangelo viene affidata sia agli undici, ma a un certo punto viene affidata anche ad altre persone che non provengono dal gruppo degli undici. E negli Atti degli Apostoli la persona a cui viene affidata questa testimonianza per eccellenza è l'Apostolo Paolo. Pensate che negli Atti degli Apostoli l'Apostolo Paolo occupa ben metà della narrazione. Alcuni esegeti hanno suggerito addirittura di cambiare il titolo del libro, non Atti degli Apostoli, ma Atti dei due Apostoli, Pietro da un lato, Paolo dall'altro. E alcuni esegeti sottolineano che di fatto per Luca il dodicesimo apostolo, quello che occupa il posto lasciato da Giuda, non è Mattia nella concezione teologica di Luca, ma sarebbe niente meno che Paolo, con un paradosso. Paolo riporta sulla scena quella macchia di sangue che Pietro voleva cancellare a tutti i costi, perché Paolo nasce alla vita cristiana dopo il periodo delle persecuzioni che lui stesso promuoveva. Quindi l'opera della grazia compiuta in Paolo riporta sulla scena quella macchia di sangue, quella ferita che scotta, che i dodici volevano cancellare. Per sottolineare che cosa? per sottolineare che l'opera della grazia è più forte della logica del peccato e che Dio ha scelto ciò che è debole per manifestare la sua potenza. Pensate, c'è un autore molto, molto noto, Karl Barth, che su questo aspetto, in una sua grande opera, la Dogmatica Ecclesiale, soffermandosi su questo aspetto, ha dedicato proprio delle pagine intere a riflettere sul rapporto tra Paolo e Mattia. E lui dice che ciò che Pietro voleva dimenticare con Mattia, Paolo non fa altro che porlo al centro dell'esperienza cristiana. Pietro, cancellando il vuoto di Giuda, si propone di cancellare un delitto che è maturato all'interno del circolo dei dodici. Perché quando Giuda viene presentato nei Vangeli come uno dei dodici, e quella non è solo un'affermazione formale, scrive Karl Barth, è vero, nessuno degli altri apostoli ha tradito Gesù, ma Giuda e gli altri apostoli sono legati l'uno con l'altro nel modo più stretto possibile. Scegliendoli e chiamandoli, Gesù li ha indissolubilmente riavvicinati e uniti. Ciò che ha fatto uno concerne tutti gli altri. Non che essi hanno compiuto quell'azione, non che siano suoi complici, ma in quanto avrebbero potuto eseguirla, in quanto hanno anch'essi una simile possibilità. Ecco, questo commento di Karl Barth fa capire che gli undici non possono tirarsi indietro dalla responsabilità limitandosi a cancellare una macchia all'interno della comunità, ma devono iniziare il loro percorso di testimonianza prendendo, assumendosi il rischio e la consapevolezza che anche loro possono correre quel rischio, avendo consapevolezza che anche loro sono deboli e che devono stare strettamente uniti al loro maestro. Leggo un altro passaggio sempre di Karl Barth che nella sua dottrina dell'elezione divina scrive così: non si può evitare di constatare che in realtà è proprio lui, Paolo, ad avere occupato il posto di Giuda e ripreso l'opera dell'apostolo che è mancato. Non si può negare che Saulo della tribù di Beniamino sia esattamente l'uomo nella cui persona e nella cui opera il cerchio apostolico abbia trovato di fatto il suo vero complemento, sia cioè il tipo di apostolo che corrisponde il meglio possibile alla situazione posteriore alla morte e alla risurrezione di Gesù. Con il nome di Saulo, Paolo è stato, molto bella questa immagine, Paolo è stato per la Chiesa nascente l'occhio cattivo, così come Giuda lo era stato per Gesù. Paolo riprende le cose nel punto stesso in cui Giuda, con il suo pentimento, aveva voluto modificarne e arrestarne il corso. Così il cerchio degli apostoli si ricostituisce, così il cerchio degli apostoli riprende la sua storia. Ecco, mi sembra che questa pagina degli Atti degli Apostoli sia particolarmente significativa anche per prepararci al periodo del Natale. Perché? Perché il mistero del Natale è il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. E il Verbo eterno di Dio si incarna in una realtà di massima povertà e riparte da lì. Ecco, noi spesso nella nostra visione del discepolato cristiano abbiamo la concezione che noi possiamo seguire Gesù solo se siamo integri, solo se siamo perfetti. No, il Signore chiede di essere accolto nel nostro oggi, così come siamo noi oggi. E poi da lì ci prende per mano per farci camminare. Certo, non ci lascia in quella situazione, ma ci prende per mano per farci camminare. Non vuole che mettiamo una maschera di santità per accoglierlo, vuole da noi la verità. Gli undici non devono cancellare la loro storia passata per essere un'immagine degna adatta ad annunciare il risorto. No, il risorto li ha scelti per quelli che sono, se nella comunità c'è stata la ferita di un uomo che ha tradito, quella ferita può tornare a glorificazione del Vangelo, perché il Signore sa andare oltre le ferite dell'uomo e lo dimostra proprio ponendo al centro della comunità cristiana una figura e un uomo come Saulo. E allora capiamo che questa comunità, che è così diversificata nelle origini, perché è composta da questi tre gruppi, le donne, gli undici e i fratelli di Gesù, che probabilmente non andavano tutti d'amore e d'accordo tra di loro, questa comunità, pur nella povertà delle tensioni che c'erano tra questi gruppi, pur nelle differenze tra un gruppo e l'altro, può essere una comunità che rende testimonianza al risorto, nel momento in cui da questo risorto si lascia plasmare e si lascia condurre. Posto questo elemento, Luca è pronto per raccontare la Pentecoste. Notate, l'Evangelista Luca poteva raccontare la storia delle origini partendo dalla Pentecoste, è cosa di meglio, Sarebbe stata, è come se andassimo a teatro e lo scenario si apre con qualcosa di glorioso, niente di meglio che iniziare con la scena della Pentecoste per raccontare la storia delle origini cristiane. Ma il racconto delle origini cristiane non è il racconto di un'epopea trionfalistica, no, è un racconto che parte da uomini e donne poveri e semplici, che fanno fatica a capire che anche dopo 40 giorni di scuola da parte del risorto, niente meno che del risorto, non hanno ancora capito niente e che stanno compiendo all'inizio della loro storia l'errore di voler cancellare ciò che di brutto c'è, perché per annunciare il risorto bisogna essere perfetti. No, il Signore fa capire loro che la prima cosa da fare è presentarsi al Signore così come siamo, evitare, in altre parole, la tentazione di Adamo ed Eva, che di fronte al peccato si sono nascosti tra gli alberi del giardino, pensando di riuscire a coprirsi con qualche foglia di fico. Il Signore ci vuole così come siamo, se noi ci poniamo nelle sue mani, Lui può plasmare la nostra povera creta e farne un'opera d'arte. Ecco, cari ascoltatori, io mi fermo qui. Come sapete, nelle nostre conversazioni è sempre importante anche il vostro intervento. In genere le nostre conversazioni sono suddivise in due parti, c'è la prima parte dove parlo io e la seconda parte dove la parola viene data a voi. E attraverso degli interventi, che raccomando, brevi, sintetici, o attraverso delle domande di chiarificazione, è possibile scavare, continuare a scavare e ad approfondire il testo che insieme abbiamo condiviso. Resto quindi in attesa dei vostri interventi e ringrazio fin d'ora quanti tra voi se la sentiranno di intervenire per arricchire questa nostra riflessione. Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Allora, io ho sentito solo l'ultima parte. Mi chiamo Fabio e telefono dal Piemonte, da Cuneo, dalla provincia di Cuneo. Mi dica, Fabio. Pronto? Sì, ecco, volevo chiederle, sì. Siccome lei mi parlava, cioè lei parlava a tutti del passato e di testimoniare il Cristo risorto così come si è, personalmente per me oggi, siccome io sono divorziato da circa 20 anni e io partecipo alla Santa Messa, prego volentieri, tutto quanto, però sono al di fuori, perché al di fuori di quello che è il contesto dei sacramenti, ok? perché io naturalmente non vivo in castità, nel senso che non sono da solo, però non ho neanche, non so come spiegarmi, non ho neanche un'ufficialità di una nullità di matrimonio. Quindi dico, io personalmente, pur amando il Signore così come sono, come posso testimoniarlo agli altri se ho questa macchia nel passato? Questo che volevo chiederle. Grazie Fabio per questa domanda e anche per questa condivisione di vita. Non è sempre facile, come dire, mettere così la propria situazione anche davanti agli altri. Io penso che una pagina come quella che abbiamo letto, questo primo capitolo degli Atti degli Apostoli, può effettivamente essere illuminante in questo senso. La prima cosa che mi sembra sia chiara è il fatto che ogni situazione di vita è un terreno abitato comunque dal Signore. L'importante è che all'interno del nostro cuore ci sia la ricerca sua, la ricerca di uno stile di vita che sia il più possibile conforme a quello che sono i suoi insegnamenti. Lui conosce fino in fondo i passi che hanno portato anche ad alcune situazioni dolorose, ad alcune scelte dolorose nella nostra vita. Lui sa fino a che punto la responsabilità è nostra, fino a che punto la responsabilità non è nostra. Lui abbraccia tutta la nostra realtà ed è questa la creta che lui plasma, lui lavora. Ovviamente nella pastorale ecclesiale attuale, in situazioni del genere, quello che è molto importante è affidarsi a un sacerdote, un responsabile di comunità che conosca da vicino la sua realtà, in questo caso la realtà di Fabio, perché solo una persona che conosce da vicino la storia effettiva della persona è in grado di avere quegli strumenti per accompagnarla con delicatezza, con prudenza, sapendo dare i giusti orientamenti, le giuste piste da seguire. La comunità cristiana è invitata da Cristo fin dagli inizi a tenere sempre le porte aperte. Ovviamente poi c'è anche, come dire, una normativa legata all'accesso ai sacramenti che ha le sue motivazioni di fondo. Però il non accedere ai sacramenti non significa che uno non fa parte della comunità ecclesiale, è una partecipazione al cammino della comunità in un modo diverso e la delicatezza dei pastori, di chi guida la comunità qui, è quello di saper coinvolgere nel modo giusto le persone. Noi sappiamo che la Chiesa si sta preparando a un grande sinodo che si svolgerà nel prossimo autunno, nell'autunno del 2014, dove verranno affrontate proprio queste tematiche. Ed è stato bello il grande gesto di umiltà, a mio avviso, del Santo Padre di alcuni mesi fa, di coinvolgere nella riflessione su alcune situazioni legate alle tematiche familiari più delicate, coinvolgere nella riflessione tutte le realtà locali attraverso quel questionario dove vengono posti degli interrogativi ben precisi, vengono messe sul tavolo dei vicariati, delle diocesi, delle conferenze episcopali, perché poi è tutta, come dire, tutta una riflessione dove il nucleo piccolo porta il suo contributo al nucleo più grande e questo contributo di riflessioni andrà sul tavolo del sinodo e vengono affrontate proprio queste situazioni. L'elemento di fondo che emerge da tutto questo però è l'idea che ho cercato di trasmettere anche a partire da questa pagina delle scritture, cioè il Signore abbraccia la nostra umanità in qualunque situazione la nostra umanità si trovi, da lì parte poi per plasmarla, è ovvio che non si limita ad accoglierla, la plasma perché ognuno di noi possa essere in piena sintonia con la vocazione umana e cristiana che ha ricevuto. Quindi grazie Fabio, sia per questa tua condivisione che per la tua domanda. Pronto? Pronto, pronto, buonasera, sono Pia da Treviso. Volevo fare una breve domanda. Sì, volevo fare una breve domanda. Lei ha detto che Dio ci prende oggi così come siamo. Io volevo capire, ma quando Dio ci prende e ci abbraccia, dipende naturalmente da Lui il momento giusto oppure dipende anche da noi? È Lui che parte l'iniziativa quando vuole Lui oppure dipende anche da noi? Ecco, grazie, ascoltate radio. Certo, grazie signora per questa sua domanda. Dipende da Lui o dipende da noi? Ma in un rapporto, in una relazione, anche tra due persone, non è che c'è solo una persona che fa tutto e l'altra sta passivamente ad aspettare quello che fa l'altro, c'è sempre una dimensione di un incontro. Certo, una cosa è importante, cogliere che dietro Dio c'è sempre un cuore che cerca. Non dimentichiamo mai che la prima domanda che noi troviamo nel racconto biblico è una domanda di ricerca da parte di Dio. Un Dio alla ricerca dell'uomo. La prima domanda della scrittura è: dove sei? Ecco, lì Dio si presenta per quello che è nel suo rapporto con l'uomo. È un Dio che ci cerca. Ovvio, ci vuole anche la disponibilità da parte nostra a cogliere i segni di questa sua ricerca. Spesso nel momento in cui noi siamo più lontani da Lui, più sono i segni della sua ricerca che Lui ci invia, ci manda. Non pensiamo però che questi segni del cercare di Dio passino solo per la via delle cose belle. A volte questa ricerca passa anche per esperienze negative. Pensate, proprio in questo pomeriggio stavo rivedendo un testo, sapete che uno dei miei ministeri come paolino è proprio quello di seguire la casa editrice, le edizioni San Paolo, e quindi uno dei compiti è quello di valutare con attenzione i contenuti dei testi. E in uno di questi testi rivolti agli adolescenti veniva presentata l'esperienza molto negativa di un adolescente che ha incontrato il Signore dove? Nel momento della grande crisi seguita allo sballo, il momento in cui dopo una grande notte passata all'insegna dello sballo si è ritrovato come uno straccio. È stato male per tutta una serie di giorni a motivo di quello che aveva fatto, aveva bevuto, aveva ingerito. Quell'esperienza però gli ha aperto gli occhi su chi veramente voleva il suo bene e su chi no. E quell'esperienza è stata per lui il momento dell'incontro con il Signore. Per altri il momento dell'incontro con il Signore può essere totalmente diverso. Pensate anche al racconto di alcuni santi, pensiamo alla storia ad esempio di Agostino, di Sant'Agostino, l'incontro con il Signore che passa attraverso una ricerca prima intellettuale, che lo lasciava però insoddisfatto, poi materiale, poi arriva il momento in cui c'è una parola di Dio che gli attraversa l'anima, in un momento forse che la sua ricerca non è che era più forte o più debole di altri momenti, no, quello è il momento che il Signore aveva scelto per trafiggere il suo cuore e lui si lascia trafiggere. Per altri può essere l'esperienza di un pellegrinaggio, per altri l'incontro con una persona, per altri un momento sacramentale, cioè ognuno di noi ha il suo appuntamento con Dio, le sue quattro del pomeriggio, se vogliamo usare un linguaggio biblico giovanneo. In questo incontro ci sono sempre però due protagonisti, Gesù e Dio non forzano mai la nostra persona, c'è sempre l'apertura di un cuore che dice sì, riconosco, oppure dice ma no, ma sono tutte fantasie, si volta dall'altra parte e continua la sua strada. Grazie Pia, perché attraverso anche questa domanda ci fai capire come l'incontro con il Signore possa avvenire in diversi modi, in diverse forme. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Don Perego? Sì, mi dica. Pronto? Allora, io sono Simone, telefono da Imperia. Ho studiato qualche annetto di teologia. A un certo punto, poco tempo fa, qualche anno fa, mi è sorto una questione, un dubbio su Giuda. Quando all'ultima cena Gesù dice a Giuda quello che devi fare, ama tutti, Gesù ha amato tutti gli apostoli, avrà amato anche Giuda, perché non gli ha detto quello che devi fare e non farlo? Gli avrebbe salvato la vita. Poi, quando San Pietro dice a Gesù, non ti accada mai, cioè di quello che a Gerusalemme doveva essere riprovato dagli anziani, essere ucciso e messo in croce, dice, Gesù gli dice, va dietro, Satana, va dietro di me. Perché non ha cercato di salvare Giuda dicendo quello che devi fare e non farlo? Questo è il mio quesito. Certo. Mi può rispondere fra 4 secondi che vado ad alzare la radio? Va bene, vada pure. Allora, la ringrazio Simone perché lei riporta l'attenzione sul vero centro della nostra riflessione, no? Questa sera nel commentare questa pagina io volevo evidenziare due aspetti. Il primo aspetto era mostrare come la comunità delle origini non fosse una comunità idilliaca. Vedete, la prima fotografia che Luca ci dà è una fotografia di tre gruppi distinti, dove c'è bisogno di una persona che faccia un po' che tesse unità. E come spesso avviene nelle nostre famiglie, dove la mamma è quella che tesse l'unità, che fa la comunione tra i diversi caratteri e che cerca di calmare l'uno, di tenere buono l'altro e riesce a compiere un'opera di mediazione, ecco, nella comunità delle origini quest'opera di mediazione è portata avanti in modo straordinario da Maria. L'altro punto su cui volevo fermare l'attenzione era il vuoto lasciato da Giuda, questa macchia di sangue che gli 11 vogliono subito cancellare e che Dio, lo Spirito, non permette alla comunità di cancellare, perché sostituirà sì Giuda, ma lo sostituirà con un altro che ha la fedina penale ancora più macchiata rispetto a quella di Giuda, che è l'Apostolo Paolo. Ora, la domanda del nostro ascoltatore è precisa. Perché Gesù non ha detto a Giuda di non fare quello che stava per fare? Ma a me sembra che durante il ministero pubblico Gesù abbia detto più volte a Giuda, come agli 11, quello che dovevano fare e quello che non dovevano fare. E poi però c'era il momento in cui ognuno doveva un po' tirare le fila di quello che aveva ascoltato dal maestro. Se noi cerchiamo di incarnarci un attimo, di metterci nella cornice degli eventi dell'ultima cena, quella frase che Gesù dice a Giuda potrebbe essere anche una frase fortemente disarmante, perché quando Gesù dice a Giuda quello che devi fare fallo in fretta, fallo subito, uno la potrebbe leggere in tanti modi, potrebbe dire guarda, questa cosa mi sta facendo soffrire a tal punto per cui per favore fa in modo che io non soffra troppo, taglia subito quello che devi fare, fallo subito. Oppure potrebbe essere intesa anche come una serenità così profonda da parte del maestro nell'affrontare quello che il padre deciderà per lui, da voler disarmare il discepolo, nel senso di dire ok, tu pensi di tradirmi, tu pensi di farmi del male mettendomi in mano alle autorità religiose, ma guarda che da parte mia c'è la piena serenità. E a volte questa serenità di fondo che caratterizza il nemico è ciò che interroga di più l'altro, è ciò che interroga di più chi vorrebbe darti contro. Quindi alcuni possono interpretare anche questa frase di Gesù come un modo molto più eloquente per dire ma che cosa stai facendo. È un modo per aprire gli occhi in modo forte. E che sia stata intesa in questo modo da alcuni studiosi questa frase lo capiamo da alcune interpretazioni che addirittura ritengono che tra Gesù e Giuda ci fosse come un patto nascosto tra i due, per cui Giuda è quello che aiuta in fondo Gesù a portare avanti la sua missione. Ovviamente non è questa assolutamente la mia interpretazione, ma dietro questa espressione, a mio avviso, ci può essere proprio un tentativo da parte del maestro di disarmare l'apostolo. E questo tentativo a un certo punto raggiunge la sua efficacia, perché nel momento del tradimento Gesù come reagisce a Giuda? Reagisce ancora in questo modo: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, lo chiama amico. E questa parola si imprimerà talmente nel cuore dell'apostolo che riconoscerà di aver tradito sangue innocente. Il dramma di Giuda sta che nemmeno lui riesce ad accettare quella macchia di sangue che pesa sulla sua coscienza, e non riesce ad accettarla fino al punto che si toglierà la vita facendo la fine degli empi. Ora, quello che gli Atti degli Apostoli cercano di mettere in evidenza, la narrazione di Luca cerca di mettere in evidenza in questa pagina, è di fare attenzione proprio a questo. A volte noi vogliamo cancellare ciò che ci disturba, senza capire che ciò che ci disturba può essere un trampolino di lancio per un cammino in cui certo bisogna rimboccarsi le maniche, però diventa molto consegnato nelle mani del Signore, può essere un'opportunità e non un limite. Grazie Simone per questo suo interrogativo. Pronto? Sì. Buonasera padre, sono Riccardo da Roma. Bene. Peppe, io volevo fare questa domanda riguardo all'evento di Sodoma e Gomorra, in cui Dio punisce Sodoma e Gomorra in maniera forte. Poi perché dopo, con l'arrivo di Gesù, tutto non è così severa la presenza di Gesù, ma perdona? E allora, dato che Gesù è sempre il figlio di Dio, è sempre Dio stesso che opera lì e qui, e allora volevo sapere come mai poi cambia il rapporto con l'umanità, insomma. Ecco, l'ascolto per radio, padre. Grazie Riccardo per questa tua domanda. In effetti noi siamo portati spesso a contrapporre in modo non corretto le pagine dell'Antico Testamento con quelle del Nuovo, non percependo, a volte anche nella nostra predicazione non si percepisce quel filo unitario che caratterizza tutta la rivelazione biblica. Se noi leggessimo con attenzione le pagine dell'Antico Testamento, soprattutto alcune pagine dei profeti, ma poi tornerò alla pagina anche di Sodoma e Gomorra, notiamo che da queste pagine, accanto al giudizio, compare anche un amore viscerale di Dio, un Dio che tratta Giacobbe come il figlio unigenito, ne ha cura, gli insegna a camminare, lo chiama addirittura vermiciattolo di Giacobbe, ma con tutto l'affetto che può essere connesso a queste espressioni. Così come dimentichiamo, per contro, che nelle pagine dei Vangeli non c'è solo un Gesù che perdona, ma c'è un Gesù che è venuto a portare il fuoco sulla terra, un Gesù che è venuto a portare la divisione, un Gesù che elogia il suo messaggero Giovanni Battista, presentandolo come il fuoco del fonditore e la lisciva dei lavandai. Quando Giovanni Battista entra in scena, non entra in scena scherzando. Oppure dimentichiamo alcune parabole che, guardate, sono molto dure. Quando Gesù parla della fine dei tempi, per cui ci sono gli uomini, verranno messi chi alla destra, chi alla sinistra, e per alcuni non c'è appello perché non l'hanno riconosciuto nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel malato, e quelli gli dicono: ma quando, Signore? Come quando? Quando lì io ero in mezzo a quei fratelli più piccoli. Non è facile da ascoltare, perché io non so voi, ma penso che durante il giorno spesso mi capita di non riconoscere il Signore che è presente nel mio fratello, cioè quando mi innervosisco, quando lo tratto male, quando non ricevo una persona, E sono tutti momenti in cui io non riconosco il Signore nel mio fratello, un domani cosa mi dirà? Cioè, sono espressioni molto dure, ancor più quando andiamo a toccare le pagine legate allo scandalo. Le pagine legate allo scandalo sono tra le pagine più dure del Nuovo Testamento. Questo per dire che cosa? Per dire che la rivelazione biblica è una rivelazione unitaria. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento il volto di Dio presenta i tratti di un amore appassionato, dove questa passione si traduce sia nell'elemento dell'amore viscerale, sia nell'elemento dell'ira e del giudizio. Torniamo alla pagina di Sodoma e Gomorra, perché? Perché la pagina di Sodoma e Gomorra viene sempre citata come l'esempio del Dio castigatore. C'è un commento rabbinico, a me piace enormemente il modo in cui la tradizione ebraica commenta le pagine della Torah, le pagine dei primi cinque libri della Bibbia. E c'è un commento di stampo ebraico che riflette proprio su questo episodio. Voi sapete che quando Dio decise di distruggere Sodoma e Gomorra, si pose una questione. Disse: io sto andando a distruggere queste città dove veniva di tutto, no? Ma come faccio ad andare a distruggerle senza aver prima almeno avvertito di questa cosa Abramo? E allora manda i messaggeri ad avvertire Abramo della cosa. Già questo è stupendo, cioè un Dio che prima di castigare l'uomo si consulta un attimino per dire: ma non è che sto facendo troppo male a questa città? E nel momento in cui Dio si manifesta attraverso questi messaggeri ad Abramo, nasce, come dire, quel dialogo in cui Abramo cerca in qualche modo di salvare Sodoma e Gomorra, per cui comincia a dire: sì, ma tu hai preso questa decisione, ma se ci fossero 50 giusti distruggeresti l'empio con il giusto? E il messaggero dice: no, se ci fossero 50 giusti Sodoma non sarà distrutta. E poi Abramo riprende con quel fare tipico della trattativa, che è tipico del mondo orientale. Voi andate nel souk e se comprate qualcosa nel souk dovete trattare, tipico del mondo orientale. E allora Abramo dice: ma se ce ne fossero 40? E Dio risponde: per amore di quei 40 io non distruggerò Sodoma. E se ce ne fossero 30? Per amore di quei 30 non distruggerò Sodoma. Poi scende ancora, scende a 20, scende a 15, scende a 10. E fino a 10 Dio dice: per amore di quei 10 io non distruggerò Sodoma. Dopodiché c'è il silenzio. E di fronte a quel silenzio Dio, il messaggero, se ne andò. Un commentatore, André Neher, nel silenzio della parola, questo è il titolo del volume di questo commentatore ebreo, dice: quella frase, Dio se ne andò, è una frase che dimostra tutto il dolore di Dio. Perché il dolore di Dio? Perché prima di tutto si è reso conto che Abramo aveva fiducia in lui, ma la fiducia di Abramo era ancora molto bassa, perché non se l'è sentita di scendere oltre il 10. Se fosse sceso ancora di 5 unità, Sodoma e Gomorra sarebbe stata salvata. E invece Abramo non ha osato, Abramo non ha voluto, Abramo non ha avuto fiducia nell'amore di Dio. Secondo, Dio se n'è andato triste, non solo perché doveva distruggere Sodoma e Gomorra, ma perché ha percepito che Abramo non aveva ancora assunto su di sé la corresponsabilità verso Sodoma e Gomorra. Era preoccupato di voler salvare la famiglia di Lot, punto, nient'altro. Non aveva ancora preso a cuore l'intera popolazione che abitava in quella città. Ecco, ovviamente è un'interpretazione, una delle tante interpretazioni che possiamo prendere con il beneficio dell'inventario, che possiamo dire sì, ma a questo limite come interpretazione, però ci fa capire bene come anche là, in quelle pagine dell'Antico Testamento, dove Dio manifesta il volto più adirato, più oscuro, effettivamente letto in un certo modo può essere segno anche di un Dio che soffre e che costruisce la sua storia insieme all'uomo. Poi, caro Riccardo, c'è anche la spiegazione classica, che però non ho dato perché tutti già la sanno, cioè in genere come risposta viene data questa, si dice c'è una progressione nella conoscenza di Dio, per cui la rivelazione dell'Antico Testamento è ancora imperfetta, quella del Nuovo invece manifesta la pienezza dell'amore di Dio nella vita del Cristo. Ovviamente c'è un fondo di verità in questo, però stiamo attenti perché a volte con questa interpretazione si semplificano troppo le cose e si rischia di opporre un testamento all'altro senza cogliere quel filo conduttore che li abita entrambi e che rende un testamento necessario all'altro per avere la pienezza della rivelazione di Dio. Grazie mille Riccardo per questa domanda. Pronto? Pronto, buonasera Don Pedego. Buonasera. Buonasera, chiamo da Roma, anche se io sono originario di Lecce, mi trovo ospite Don Pedego. In una diciamo struttura della sua congregazione dei Polini, via del Santo Severo. Oh, bene, bene. Sì, da Don Francesco mi ha ospitato per qualche giorno qui a Roma. Senta padre, lei ha detto, no, nella sua bellissima... Come si chiama? Io mi chiamo Tommaso. Tommaso, mi dica Tommaso. Tommaso. Nella sua bellissima catechesi ha detto che dinanzi al Signore non bisogna presentarsi con un volto, con una faccia da santi, diciamo, ecco. Però, diciamo, Don Pedro, spesso leggo nel Vangelo, sta scritto pure, no, che il Signore ci invita a essere perfetti come il perfetto Padre nostro che è nei cieli. Ecco, come mai questa, diciamo... diciamo potrebbe essere una disuguaglianza da quello che dice lei e quello che dice diciamo il Vangelo. Grazie, arrivederci. Grazie di cuore Tommaso per questa sua domanda. Allora Tommaso si trova in questo momento in una delle nostre comunità, che è la comunità dove si trova al centro di un comprensorio, del nostro comprensorio c'è un grande santuario e nella sottocripta di questo santuario è custodito il corpo del nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione. Pensate, nel 2014 sarà il centenario di fondazione della nostra congregazione. E mentre lui parlava mi veniva in mente uno degli insegnamenti che noi abbiamo ricevuto dal nostro fondatore. Il nostro fondatore amava dire che quando noi moriremo, alle porte del paradiso il Signore non si presenterà a noi con la lista dei peccati, cioè non uscirà alla porta srotolando un rotolo dove noi leggiamo tutti i nostri peccati, ma il Signore uscendo dalla porta del paradiso ci guarderà in faccia e guarderà se dentro di noi ci sono i lineamenti del Figlio. Se in noi riconosci i lineamenti di Gesù, bene, la porta si apre e noi possiamo entrare. Se invece su di noi non ci sono i lineamenti del Cristo, ci rimanderà indietro, ci manderà dall'estetista per sistemarci un pochettino. Questo per dire che è molto vero, ovviamente, quello che Gesù dice. Dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli. Dio per accoglierci nel Regno Eterno vuole vedere la piena conformazione del Cristo in noi. Paolo dice non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Ecco, noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo qua, questo è il discepolato cristiano, permettere al Cristo di vivere in noi, parlare con le nostre parole, agire con i nostri gesti, avere gli stessi pensieri di Gesù, avere le stesse passioni di Gesù per l'uomo, per la giustizia, per la verità. Però questo non è che noi lo otteniamo da un momento all'altro, c'è un percorso da fare. Quello che volevo dire era questo, cioè non accontentarci ovviamente, no, non voglio dire che ognuno di noi deve stare così com'è, no, però ognuno di noi da dove si trova deve iniziare un cammino. Facciamo l'esempio del Natale. Ognuno di noi in questi giorni sta costruendo dei presepi in casa, oppure sa che nella propria parrocchia viene costruito il presepio. Chi sono i personaggi che abitano il presepio? Sono i pastori, i primi a visitare Gesù sono i pastori. Ora, i pastori si sono presentati perfetti a Gesù, ma no, erano gli impuri della società di allora. Però con Gesù hanno iniziato un cammino nuovo. Chi arriva alla grotta di Betlemme? Arrivano i magi chi erano? Noi li presentiamo come i saggi, come i re, ma guardate che i magi erano degli indovini, si dedicavano ad alcune realtà, quelle degli astri, dei misteri occulti della vita, che Israele mica amava, erano tra le persone anche loro reiette. Poi è chiaro, sono i benvenuti perché portano l'oro, l'argento, la mirra, va bene, portano i doni venuti dall'Oriente, ma nella mentalità del tempo i magi non erano mica delle persone sante, però si sono presentati alla grotta di Betlemme e dalla grotta di Betlemme hanno iniziato un cammino nuovo, dopo essersi prostrati davanti al segno del figlio fatto carne. Quindi quello che il Signore chiede a noi è quello, partire da lì, cioè andare incontro al Cristo, accoglierlo e iniziare insieme a Lui un cammino di conformazione. E in altre parole, quello che ci dice la prima pagina degli Atti degli Apostoli è quello di non avere paura dei nostri limiti e delle nostre imperfezioni. Noi dobbiamo aver paura dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre imperfezioni solo quando ci rassegniamo, perché quando ci rassegniamo ad essi vuol dire che hanno preso il potere su di noi. Finché noi non ci rassegniamo ai nostri limiti, ai nostri peccati, alle nostre imperfezioni, vuol dire che stiamo camminando e stiamo camminando con Dio. E questa è la cosa più significativa. Lo Spirito Santo, sulla pagina della Pentecoste la commenteremo la volta prossima, no? Lo Spirito Santo che scende sui dodici, sulle donne, sui discepoli, sui parenti di Gesù, su questo primo gruppo di 120, non scende su delle persone perfette, scende su delle persone che hanno delle tensioni tra di loro. Non a caso nella storia del cristianesimo della prima ora ci sono diverse tensioni. Però non scende su persone perfette, scende su persone che hanno dei limiti, ma le accompagna al cammino di conformazione a Cristo. È quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Quindi grazie Tommaso che hai chiamato da Roma e quando vai davanti a Don Giacomo Alberione di una preghiera anche per noi. Grazie. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì. Sono Luca dalla provincia di Udine. Bene Luca, mi dica. Lei ha parlato dell'episodio dell'elezione di Mattia come dodicesimo apostolo. Sì. E a quanto si è capito, questa non è stata opera dello Spirito Santo, ma una decisione forzata degli apostoli, degli undici rimasti, o 120 come si vuole. E questo mi lascia un po' perplesso, anche perché sembra che c'era la presenza di Maria lì, no? E poi vorrei che lei approfondisse, sempre a proposito di Mattia, quando si parla nei Vangeli apostoli appunto di Mattia. Ecco, va bene. Questo... Allora, la ringrazio prima di tutto della domanda perché ci permette di precisare alcune cose. Non era mia intenzione dire che l'elezione di Mattia era un'elezione forzata, assolutamente no. Cioè, in quel momento la comunità della prima ora riteneva che quella fosse la scelta più giusta da fare. Quindi nessun processo alle buone intenzioni di Pietro della prima comunità. Con le buone intenzioni si fanno tantissime cose. Quello che però sembra, dalla continuazione del racconto degli Atti degli Apostoli, diverso è che il Signore aveva in mente un altro progetto. Nulla toglie questo a Mattia e alla sua santità, per carità. Tra l'altro, tra le due persone scelte era quello che aveva meno lettere di presentazione, fra virgolette, ma il Signore sceglie proprio lui, per dimostrare come a volte la logica di Dio è diversa da quella dell'uomo. Ecco, quello che mi premeva sottolineare è questo, la logica di Dio a volte è diversa da quella dell'uomo. Pietro non è che volutamente ha fatto qualche cosa, no, per Pietro quella era la scelta migliore, ottime intenzioni c'erano nel sostituire Giuda, però lo Spirito non ha voluto che la comunità cristiana iniziasse il suo cammino con, come dire, la carta d'identità pulitissima, no, perché vi aggiunge subito un altro, Saulo, che ha la carta d'identità macchiata di sangue, non di una persona, di tante persone. E allora, quello che bisogna capire, quello che mi premeva sottolineare, era questo. Lo Spirito a volte agisce in modo diverso da come noi vorremmo. La storia a volte viene portata avanti da Dio in un modo molto diverso da come noi la penseremmo. Quindi, lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello di entrare in una logica di fede che è molto diversa dalla logica umana. Nella logica umana le cose devono andare per forza di cose dritte, nella logica di fede a volte i percorsi possono essere molto più contorti, ma questo non significa che sono più lunghi, sono i percorsi dello Spirito Santo. La seconda sua domanda era di dire qualcosa in merito alla letteratura apocrifa su Mattia. Ecco, non ho sotto mano su questo aspetto gli appunti immediati, per cui posso dire qualche cosa magari la prossima volta, nella prossima puntata, prima di iniziare con il commento del racconto di Pentecoste, dirò qualcosa su questo aspetto. So per certo che diversamente dagli altri apostoli, nella letteratura apocrifa noi abbiamo i Vangeli apocrifi collegati ai diversi apostoli, c'è il Vangelo di Tommaso, c'è il Vangelo di Pietro, c'è addirittura un Vangelo di Maria di Magdala, c'è il Vangelo di Bartolomeo, c'è quasi un Vangelo per ogni apostolo. Per avere un Vangelo di Mattia bisogna aspettare paradossalmente molto tardi. Ed è comunque curioso che di questa persona non si parli più nel Nuovo Testamento, non solo negli Atti degli Apostoli, ma nel Nuovo Testamento. Ecco perché sorge, come dire, l'interrogativo che questa persona a cui Pietro voleva dare così tanta importanza all'inizio della storia cristiana, alla fine scompare del tutto, proprio perché la logica di Dio a volte è un pochino diversa da quella dell'uomo, perché l'obiettivo dell'uomo magari è curare un aspetto, lo Spirito invece ne vuole curare un altro. Grazie di cuore Luca per questa sua domanda. Mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato, io desidero salutare tutti voi ascoltatori, ringraziare in modo particolare chi ci ha arricchito con le sue domande, Luca da Udine, Tommaso da Roma, Riccardo da Roma, Simone da Imperia, Pia da Treviso e Fabio da Cuneo. Auguro a tutti voi un buon cammino verso il Natale. Io in questo Natale mi soffermerò su un dettaglio, che è il dettaglio della notte. Mi sto interrogando come mai Gesù ha scelto proprio la notte per nascere. Non ha scelto l'ora del giorno, non ha scelto la luminosità, ha scelto di abitare la notte. E questo, a mio avviso, è un grande segno di speranza. Non c'è momento di buio, di disorientamento, di allontanamento che non sia abitato da Lui. Lui nasce la notte e rinascerà il giorno della risurrezione ancora di notte, per dire che della notte noi non dobbiamo avere paura. Un caro augurio di Buon Natale a tutti voi ascoltatori. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.